rimanendo fedele a quattro regole. La prima è non fregare chi ti ama, la seconda è carpe diem, la terza è perdonarmi, io non muoio da colpevole. La quarta è non giurare, non so dire le bugie, e la somma delle aspettative che ti crei equivale al totale delle delusioni che ricevi. E trovare un'altra strada fa paura anche agli dèi, ma cambiare è solo umano se al tuo Dio non lo concessi. Io non vado a letto presto, se non fumo non ci riesco, escludi il resto e cioè sono pesto per chiamarmi, basta un gesto. E detesto chi parla parla e non fa un cazzo, ma fai un po' un CD. Sì, ma per X Factor regalatemi un fucile ed un contratto, così firmo con il sangue, chiudo gli occhi e premo il tasto. Campiona pure il suono dello sparo nel mentre, se ti impegni poi magari ci fai pure un beat decente. Va, rappresento l'essenza della storia. Preso per il culo dalla mia zia, cambia la bandiera come cambia questa gente. 31 anni con il giorno che per merda. Rappresento l'essenza della storia. Preso per il culo dalla mia zia, cambia la bandiera come cambia questa gente. 31 anni con il giorno che per merda. Essere un pazzo visionario, ficolaro, ficoraro, poi ti costa almeno il doppio che fare il milionario. Altro che bario qui, e se ne esci tutto intero è solamente perché in tasca non hai niente che sia serio, Smith. E adesso arrestaci, tanto col THC distinguiamo la tua merda dai fottuti a Brema Chic. A monosillabi anche un cane te lo caga, un extra beat. E anche il testo che senti rap fra non lo vedi che c'è. Sarai sempre troppo al coro, troppo swag sul tuo set. Fatti gangsta e siete in tre, state zitti mentre passano 8-9 Melo FX. Suono fresh, dillo a qualcun altro, io non sarò mai felice se non sudo sei camicie sopra il palco. Manco di ispirazione intanto, mi fumo anche le dita per cagare un disco all'anno. Il pacco 8-9 BPM Bullis Record.